Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchesi, è il 5 di aprile, Italia in controluce, il quotidiano di Radio 24 in onda, due edizioni, 6.30, 13.30, il quotidiano che parla di cronaca. Cronaca e spettacolo. Andrea De Carlo è uno degli scrittori più prolifici e conosciuti del mondo dell'editoria italiana. Ma cosa significa scrivere oggi in Italia? Alessandra Tedesco intervista per noi Andrea De Carlo. Andrea De Carlo, scrittore, che abitudini ha? Che vizi ha? Se ce ne ha. Vizi, devo dire, mentre scrivo, non tanti, magari forse quello di mangiare cioccolata amara, che ho scoperto che è una cosa che è comune a vari scrittori. Credo che ci sia qualche ragione chimica dietro questo. Per il resto non c'è niente di particolarmente suggestivo, perché lavoro di giorno, quindi come per fare un altro lavoro, lavoro dalla mattina alla sera. Per esempio non lavoro di notte, non scrivo a lume di candela. Insomma, l'immagine dello scrittore così un po' problematico che lavora di notte solo quando è ispirato. Credo che naturalmente scrivere romanzi si basa sull'ispirazione e senza quello non fai niente, però quello che ho scoperto e che scopre credo ogni scrittore è che l'ispirazione devi renderla possibile, quindi devi creare delle condizioni in cui si possa sviluppare, e questo richiede una disciplina quotidiana, perché poi l'ispirazione deve restare, non basta che arrivi un giorno e poi ti illumini e se ne torna dov'era. No, hai bisogno di alimentarla giorno per giorno. Quindi è un misto di ispirazione e di, come aveva detto qualcuno, perspirazione. Vale a dire, c'è una quotidianità artigianale nello scrivere, come in qualunque altro lavoro, che forse un lettore a volte non immagina, perché pensa allo scrittore come a qualcuno baciato da qualche forza superiore. Credo che quella forza superiore tocchi chiunque inventi una storia, ma credo anche che poi a chi la racconta sia indispensabile lavorarci sodo in modo molto quotidiano. Ultimamente in Italia va molto di moda questa polemica: il romanzo è morto, no, il romanzo è vivo. Insomma, per Andrea De Carlo il romanzo a che punto è? A me fa un po' ridere la polemica, perché mi ricordo che era molto viva o morta quando ho pubblicato il mio primo romanzo. E quindi parliamo di tanti anni fa. E mi ricordo che molti teorizzavano come il romanzo fosse una forma finita, come i lettori poi del resto si sarebbero estinti, sarebbero spariti, per cui addirittura discettare di questo sarebbe stato addirittura inutile, tempo perso. Nel tempo ho scoperto che i lettori non erano affatto finiti, né lo erano i romanzieri, e credo che non lo saranno mai, perché il romanzo credo svolga una funzione che non può essere sostituita da altre forme, vale a dire di osservazione, di riflessione sul mondo, sulla vita, con un tipo di prospettiva che è diversa da quella della cronaca, che è addosso agli eventi, che non è necessariamente spettacolare, che è molto interiore, con cui il lettore assume un ruolo che è molto attivo, non è affatto passivo, per cui c'è una sorta di partnership fra chi scrive e chi legge, e credo che questo sia unico del romanzo. Che ruolo secondo te deve avere lo scrittore? Ma credo che lo scrittore sia un testimone, e come testimone debba essere il più possibile onesto. Credo che questa sia forse la caratteristica che uno dovrebbe per prima richiedere a uno scrittore dal lettore. E poi naturalmente di cosa testimoni cambia a seconda di chi sia lo scrittore, perché intanto testimone di se stesso, cioè della propria vita, di quello che, del suo modo di viverla, di percepirla, dei suoi pensieri, ma molto spesso facendo racconta del mondo che ha intorno. Gli scrittori più interessanti sono quelli che raccontano anche della società, di tutto quello che c'è nel sistema di rapporti interpersonali, e poi più sono bravi, secondo me, più sono fuori dal tempo specifico in cui lavorano. Ed è per questo che oggi uno può leggere Tolstoi o Flaubert secoli dopo ormai e trovare, oppure, non so, ci sono, per esempio, una scrittrice che io adoro, è Jane Austen, che addirittura era nata nel Settecento, che pensandoci oggi è una cosa sconvolgente. Quando si leggono i suoi romanzi si scopre quanto sono attuali, potremmo dire. Quindi, insomma, lo scrittore non deve essere strettamente ancorato alla realtà. No, anche se poi lo è inevitabilmente, ma potrebbe essere un sognatore o uno che abita altri mondi, come era Kafka, per esempio, e ugualmente parla della realtà, anche se la sua è una realtà metaforica o così interiore da essere scollegata apparentemente dalla realtà esterna. In realtà parla anche di quello. Che rapporto hai con i lettori? In genere, quando scrivi, pensi al lettore, a colui che andrà appunto a leggere le tue pagine, o preferisci di no, non considerarlo, ecco? No, so che avrò dei lettori, ma cerco di dimenticarmelo. Quando comincio a scrivere una storia è più un dialogo fra me e me, cioè due parti, perché poi c'è questa sorta di schizofrenia controllata in uno scrittore, credo, in ogni scrittore. Per dire, c'è quello che racconta la storia, ma c'è anche quello che la critica, c'è quello che è dentro insieme ai personaggi, c'è quello che sta fuori ed è in grado di capire quando qualcosa non funziona. Hai bisogno di questo esercizio continuo di partecipazione e di estraneazione. Ai lettori ci penso dopo, quando il libro ormai è finito, e allora comincio a essere curioso di cosa possa succedere, quale sia il suo destino, chi lo leggerà, che è una cosa che penso, ma dopo. Fra i tanti romanzi che hai scritto, ce n'è uno a cui sei particolarmente legato e, domanda cattivella, uno che invece insomma, adesso pensi, bah, forse avrei fatto meglio a non scrivere. O magari riscriveresti in modo diverso, ecco, mettiamola così. Ma, beh, cominciando dalla fine, ce ne sono sicuramente un paio, direi in particolare uno che si chiama Macno e un altro scritto subito dopo si chiama Yucatan, che secondo me partivano da due idee interessanti, ma che avrei potuto sviluppare in altro modo, avendo più tempo, avendo più concentrazione su quello che stavo facendo in quel momento. E poi, non so, per gli altri è molto difficile per me scegliere, perché c'è un legame diverso con ognuno per ragioni molto diverse, ma se dovessi proprio dirne uno direi lei e lui, perché è l'ultimo che ho scritto ed è quello che rappresenta dove sono io ora, vale a dire la mia ricerca in termini di linguaggio, di temi che mi interessano, che mi riguardano più da vicino, è quello che mi appartiene di più in questo momento. Era la prima edizione Italia in Controluce, siamo anche su Facebook, cercateci su Twitter in Controluce, raggiungibili via mail controluce@radio24.it. Torniamo oggi alle 13.30 con un nuovo reportage su Onna e le inchieste sul terremoto in Abruzzo di Raffaella Calanda.